Come fa la tua pelle a sapere di pesca per tutta la settimana? Come fa la tua pelle a sapere d'arancia, d'arancia siciliana? Qualcuno dovrebbe spiegarmi chi sei veramente, perché io non lo chiederò mai a te direttamente, perché io non lo chiederò mai a te direttamente. Come fa quel tuo sguardo a puntare il futuro e a fermarsi su tutte le cose e passare attraverso quei mondi incantati e arrivare alla fine del mese? Nessuno è riuscito a spiegarmi chi sei veramente, e mi sa che un bel giorno lo chiederò a te direttamente. Un bel giorno lo chiederò a te direttamente. Ma per adesso è come stare al ristorante, chiedere il conto senza avere in tasca niente. Mi hai allagato il cuore e te lo voglio dire così, tanto per fare un discorso in generale. E tutto questo è come stare al ristorante, se non hai niente da dire, non dire niente. Una di rosso è mezza naturale, così per continuare quel discorso in generale. Come fanno le mani a resistere ancora e a non stringerti fino a morire? Come fanno le parole a seguirsi, intrecciarsi fino a sparire? Come fa la tua voce a cantare la pioggia che cade, il vento e il sereno? La tua voce a toccare, a sfumare nei colori dell'arcobaleno? La tua voce a toccare, a sfumare nella luce dell'arcobaleno? Ma tutto questo è una questione di pazienza, come aspettare col sorriso una sentenza, come parlare del disordine mondiale così, tanto per fare un discorso in generale. E tutto questo è come stare al ristorante, se non hai niente da dire, e vabbè, non dire niente. Dimmi del mondo o leggimi il giornale, così per continuare quel discorso in generale. Come fa la tua pelle a sapere di pesca per tutta la settimana? Come fa la tua pelle a sapere d'arancia? Arancia siciliana.